un piccolo accenno, io credo che il collega Moretto è un grande specialista del pensiero di Schleiermacher e ha scritto un libro, Etica e Storia in Schleiermacher, Napoli 79, e voglio anche dare un accenno su un articolo, Attualità di Schleiermacher, pubblicato in Cultura e Scuola di 76. Allora, io credo che tutti siamo intenti di ascoltare questa relazione, allora cedo la parola al professore Moretta. Mi scuso con i colleghi tedeschi se parlo la mia lingua materna. Per il mio masochismo è sufficiente che strapazzi la lingua di Dante, non quella di Goethe. Del resto, loro sanno che nelle Rede an die deutsche Nation di Fichte è scritto che coloro che possiedono la lingua tedesca possono capire anche le altre lingue. Facciamo una piccola prova a vedere se è vero. Il titolo della mia relazione è mutato rispetto a quello annunciato, perché ho visto che l'amico Scholz trattava un tema analogo, Schleiermacher e Geisteswissenschaften, e trattare di etica ed ermeneutica in Schleiermacher voleva dire fare un discorso analogo, non con la competenza di Scholz, che per me è il maggiore studioso di Schleiermacher attuale, ha degli strumenti finissimi, ecco, per studiare Schleiermacher. Il titolo è questo che ora propongo, è Eingebung und Freiheit, Schleiermacher und die ethische religiöse Begründung der Ermeneutik. Ecco, ispirazione e libertà, Schleiermacher e la fondazione etico-religiosa dell'ermeneutica. Sia Hegel che Schleiermacher hanno insegnato che la storia della filosofia è un aspetto essenziale della stessa filosofia teoretica. È forse da questo insegnamento tanto unanime di due pensatori tanto diversi che la contemporanea filosofia ermeneutica deriva il bisogno, ormai quasi rituale, di riscrivere sulla soglia delle proprie speculazioni la storia dell'ermeneutica. Ma si sa anche la storia dell'ermeneutica è obbligata a sottostare alle leggi ermeneutiche. La storia non può essere scritta senza i Vorurteile e i Vorverständnisse dello storico. E quanto sanno molto bene anche i moderni ermeneuti filosofici, improvvisatisi storici, i quali, bruciato un grano di incenso al dio Hermes, che li ha investiti di un messaggio di inaudita novità, non trovano sconveniente ammiccare a Vorverständnisse che permettano una lettura della storia dell'ermeneutica per così dire, pro domo interpretis. Non ci si può infatti sottrarre all'impressione che le storie dell'ermeneutica messe in testa alle voluminose ermeneutiche filosofiche contemporanee non abbiano altro scopo che sottolineare, per contrasto con l'antico, la conclamata originalità del nuovo verbo ermeneutico. Storie quindi strumentali, apologetiche, che per sfuggire al rischio del paventato oggettivismo metodologico si abbandonano tra le braccia di un soggettivismo che non nasconde la pretesa di essere il luogo di una mitica messa in opera della verità. Tra i topoi, per non dire tra i Vorurteile, di una simile storiografia ad usum interpretis, vanno sicuramente annoverati assunti tanto poco storici come quello che fa iniziare l'ermeneutica con il sola scrittura protestantico, o quello che bolla di oggettivismo metodologico l'ermeneutica romantica e della scuola storica, e quindi fissa il centro dell'ermeneutica schleiermacheriana nella cosiddetta ermeneutica psicologica o tecnica, nella quale finirebbe per dissolversi il pur riconosciuto merito degli Schlegel e degli Schleiermacher, autori della svolta dall'ermeneutica come coacervo di regole di una disciplina ausiliaria della filologia, all'ermeneutica come Kunst universale del comprendere e quindi come disciplina filosofica. Un altro topos sbrigativamente liquidatorio di questa storiografia è l'asserzione che l'interesse che guida, cito Gadamer, l'astrazione metodologica di Schleiermacher non è quello dello storico, ma quello del teologo. Egli voleva insegnare come si comprendono i discorsi e la tradizione scritta, perché da una certa tradizione, quella biblica, dipende la dottrina della fede. Per questo la sua teoria ermeneutica è ancora assai lontana da una storica che possa servire da organo metodologico alle scienze dello spirito. Il suo scopo era una interpretazione determinata di certi testi e in vista di tale scopo anche l'insieme delle connessioni storiche doveva solo servire di mezzo. Fine della citazione. Pare di dover intendere quindi che l'universalità dell'ermeneutica schleiermacheriana sarebbe naufragata perché messa al servizio dell'interpretazione di certi testi. A parte il fatto che se la filosofia ermeneutica ha un senso, lo ha unicamente come fenomenologia del concreto atto interpretativo. Non si vede come l'interpretazione di certi testi, leggi, Nuovo Testamento, piuttosto che di altri, i soliti Hölderlin, Rilke e Trakl, abbia il nefasto potere di mortificare l'universalità del compito ermeneutico. Ad ogni modo, per rimettere in ordine le cose, basterebbe ricordare quello che Heidegger scrive con accento autobiografico in Unterwerfungsfrage, in un testo che probabilmente rimarrà il classico della filosofia ermeneutica novecentesca. Scrive Heidegger: la mia familiarità col termine ermeneutica risale al tempo in cui studiavo teologia. Il problema che allora soprattutto mi tormentava era quello del rapporto tra la parola della Sacra Scrittura e il pensiero teologico speculativo. Era, se si vuole, lo stesso rapporto che tra linguaggio ed essere, solo velato e per me inaccessibile, così che tra giri e sviamenti invano cercavo un filo conduttore. Fine della citazione. Il che vuol dire che erroneamente si potrebbe pensare di scrivere la storia dell'ermeneutica sul troppo facile e abusato schema della secolarizzazione progressiva di un'idea, di una pratica religiosa. L'ermeneutica, come testimonia appunto Unterwerfungsfrage, non acquista certo la propria universalità teoretica staccandosi dall'ort in cui è nata, dall'ort in quanto Ursprung, che non solo la storia, ma la stessa teoresi insegna essere religioso. Ma non è un caso che lo Heidegger, che auspice la menzionata lezione di Schleiermacher, non smarrisce il senso del nesso intercedente tra religione e ermeneutica, sia lo stesso che all'apparire della prima edizione del Römerbrief barthiano ravvisava in quest'opera una delle poche indicazioni offerte all'autentica vita spirituale del tempo. Ora, proprio nella prefazione di questa edizione del 1919 si trova detto con parola dal profilo classico quello che a distanza di decenni si è poi venuto proclamando come la novità della filosofia ermeneutica. Scriveva infatti allora Barth: Paolo ha parlato come figlio del suo tempo ai suoi contemporanei, ma molto più importante di questa verità è un'altra, che egli parla come profeta e apostolo del regno di Dio a tutti gli uomini di ogni tempo. Delle differenze tra allora e ora, tra quei luoghi e questi, si deve tener conto, ma lo scopo della considerazione può essere soltanto di giungere al riconoscimento che queste differenze non hanno alcuna importanza nell'essenza della cosa. Il metodo storico-critico della ricerca biblica ha la sua ragion d'essere, ha come scopo di preparare la comprensione, il che non è mai superfluo. Ma se dovessi scegliere tra quel metodo e l'autentica dottrina dell'ispirazione, sceglierei decisamente quest'ultima. Essa ha una maggiore, più profonda, più importante ragion d'essere, perché si riferisce al lavoro stesso della comprensione, senza la quale ogni preparativo è privo di valore. Sono contento di non dover scegliere tra i due metodi, ma tutta la mia attenzione è stata rivolta a penetrare attraverso l'elemento storico nello spirito della Bibbia, che è lo spirito eterno. Ciò che un tempo è stato importante lo è ancora oggi, e ciò che oggi è importante e non semplicemente caso e stravaganza è anche in immediato rapporto con ciò che una volta lo è stato. I nostri problemi sono, se comprendiamo bene noi stessi, i problemi di Paolo, e le soluzioni di Paolo devono essere le nostre soluzioni, se la luce che le illuminava è la stessa che illumina noi. Prima di concludere che la comprensione della storia è un dialogo continuato, sempre più sincero e penetrante, tra la saggezza di ieri e quella di domani, che è una e la medesima, Barth cita sintomaticamente i seguenti versi della poesia Vermächtnis di Goethe. La verità era stata già da tempo ritrovata. Ha legato insieme una nobile compagnia di spiriti, l'antica verità, a Ferral. L'icasticità e l'eloquenza della citazione goetiana risultano subito evidenti appena si pensi alla fortuna incontrata dalla concentrata e prosaica definizione dell'ermeneutica che si legge nell'Enzyklopädie und Methodologie der Philologischen Wissenschaften dello scolaro di Schleiermacher, August Böck, per il quale essa sarebbe un Erkennen des Erkannten, il che dovrebbe insegnarci che anche sull'ermeneutica, se con essa si ha a che fare con un modo di essere autentico dello spirito umano, è possibile che la parola più persuasiva, come è accaduto e accade spesso per temi come quello della verità, della libertà, della giustizia, eccetera, sia dato di rinvenirla tra le pieghe di un discorso non specificamente ermeneutico o addirittura, ma come stupirsene, nel breve giro di un verso poetico. Tanto per citare ancora una volta Goethe, chi degli odierni filosofi ermeneutici non li invidierebbe quello che egli, con la prodigalità del genio, mehr fallen ließ als ausstreute, per usare un'espressione che Schleiermacher usa a proposito di Wolf, mehr fallen ließ als ausstreute nelle Betrachtungen in Sinne der Wanderer, inserite al termine del libro secondo dei Wilhelmmeisters Wanderjahre. Alles Gescheite ist schon gedacht worden, man muss nur versuchen, es noch einmal zu denken. Ma lo stesso discorso dovrebbe essere fatto per le numerose sentenze ermeneutiche enuncianti non già singole regole per enucleare il senso di testi oscuri o facilmente fraintendibili, ma appunto nella compendiosità retorica della loro formulazione il senso universale dell'evento ermeneutico. Questo stesso discorso si dovrebbe fare per le numerose sentenze ermeneutiche che si incontrano negli scritti dei primi esegeti cristiani, in particolare di Agostino. È vero, alle loro spalle, alle spalle di questi esegeti, questi non avevano uno Hegel con la sua dottrina dello spirito oggettivo. Lo Hegel che si vuole mentore della nuova filosofia ermeneutica al posto del meno filosoficamente scaltrito e quindi superato Schleiermacher. Ma avevano, se non Platone, certamente il Paolo di Romani 8:16, che dice «Auto to pneuma sui martirei to pneumati emon». «Auto to pneuma», quale pneuma? «Sui martirei nel presente, con testimonia, con il nostro spirito, con lo spirito di ciascuno di noi». Un testo questo di Paolo che, oltre a fissare con potenza espressiva quello che ultimamente vuole essere detto dalla filosofia convertitasi in ermeneutica, può essere considerato l'ispiratore dello stesso hegelismo più profondo e perenne. Insomma, la storia dell'ermeneutica, che venga scritta con sensibilità filosofica e non a colpi di pseudoconcetti come antico, moderno, e oggi c'è la mania del postmoderno, difficilmente può essere fatta iniziare con la riforma protestante. In ogni caso è assai dubbio che a costituire la struttura di tale storia debbano venire convocate le sentenze dei Flacius Illyricus, dei Rambach, dei Cladenius, dei Michaelis, degli Ernesti, eccetera, e non piuttosto quelle di un Paolo, di un Origene, di un Agostino e di un Goethe e di altri. Ma ritorniamo alla prefazione barthiana al Römerbrief, con la sua contrapposizione tra esegesi storico-critica e dottrina dell'ispirazione biblica. In essa non compare mai il nome di Schleiermacher, eppure un lettore attento si rende subito conto che l'interlocutore del teorizzamento ermeneutico barthiano è proprio il filosofo teologo di Breslavia, evocato sotto l'etichetta esegesi storico-critica, o in linguaggio schleiermacheriano ermeneutica psicologica. È quanto confermano le lezioni barthiane di Göttingen del semestre invernale 1923-24 sulla teologia di Schleiermacher, nelle quali trova un posto di tutto rispetto anche l'ermeneutica, che, come osserva espressamente Barth, permette di imparare a conoscere Schleiermacher sotto uno dei suoi aspetti migliori, più brillanti, nella sua energia naturale, nelle sue acque più familiari. Ora, in tali lezioni è detto con forza: l'ermeneutica di Schleiermacher tiene non solo in poco, ma in nessun conto il concetto di ispirazione. Ovviamente Barth si riferisce all'interrogativo con cui Schleiermacher inizia le proprie considerazioni ermeneutiche. I libri sacri, a motivo dello Spirito Santo che li ispira, devono venire interpretati in maniera diversa da tutti gli altri libri? No, è la risposta, perché il carattere ispirato di un libro deve risultare dall'interpretazione e non costituirne il presupposto. Anche la Bibbia deve sottostare alle comuni regole ermeneutiche, il che naturalmente non esclude una speciale ermeneutica biblica, che però non sarebbe altro che l'applicazione dell'ermeneutica generale alle particolari lingue e ai particolari autori umani dell'Antico e del Nuovo Testamento. Ma è proprio vero che, come sembra credere Barth, Schleiermacher ha liquidato la dottrina teologica dell'ispirazione, smarrendo il senso autentico di quello che attraverso essa vuole essere pensato? O non è piuttosto che anche su di essa egli ha fatto soffiare il vento universalizzante del principio di libertà, per il quale dottrine e concetti elaborati nell'ambito circoscritto delle teologie confessionali si animano e si universalizzano per esprimere modi di essere della struttura religiosa presente nella coscienza di ogni uomo che venga in questo mondo? È, come si sa, per tale operazione che nasce il liberalismo religioso e che il pensiero, anche applicato al dominio del religioso, fa salva non soltanto la propria costitutiva criticità, ma anche la non meno costitutiva ecumenicità e carità. Non il Monte Moria né il Sinai o l'Oreb, ma la coscienza di ogni singolo uomo, sia egli genio, eroe, poeta, filosofo o anche uomo del sottosuolo, paria o idiota, rappresenta l'autentico locus revelationis. Ogni singolo uomo è il luogo in cui si compiono i miracoli, piove la grazia, si attinge l'imperativo dell'Eterno, l'eternità come compito piuttosto che come premio, si ode la convocazione al conessere ecclesiale. È questo il grande tema che chiude la seconda rede schleiermacheriana e nel quale viene riservato un posto particolare al concetto di ispirazione, abilitato addirittura ad esprimere la stessa essenza religiosa della libertà. Scrive Schleiermacher: che cosa significa la parola ispirazione? Essa è semplicemente il nome religioso della libertà. Ogni azione libera che diventi un atto religioso, ogni traduzione di un'intuizione religiosa, ogni formulazione di un sentimento religioso, la quale si comunichi realmente in modo che quella intuizione dell'universo passi ad altri, è avvenuta per ispirazione, perché era un'azione dell'universo esercitata attraverso l'uno sugli altri. Fine della citazione. A ben leggerlo, questo testo di una densità concettuale estrema, quali del resto sono quasi tutte le pagine delle Reden, si presenta come un invito a capovolgere la tesi di Barth. Lungi dal liquidare la dottrina dell'ispirazione, Schleiermacher la universalizza al punto che non solo le Bibbie, ma ogni parola mortale che scaturisca dall'intuizione e dal sentimento religioso cade sotto l'ispirazione divina. Anzi, sotto l'ispirazione non cade soltanto l'atto dello scrivere, ma anche quello del comunicare, del partecipare ecclesialmente il verbo in cui necessariamente si fissa l'intuizione religiosa del divino. Ritroviamo qui quell'estensione ecclesiale dell'evento ispiratorio che più tardi farà la sua comparsa in tesi non facilmente dimenticabili di un maestro della teologia contemporanea come Karl Rahner. Ora, per effetto di tale estensione, si deve anche dire che sotto l'ispirazione cade lo stesso interprete. Egli pure, infatti, quando si rivolga a un messaggio religioso, mette in gioco la propria libertà, accetta cioè soltanto quel messaggio che gli si addice, scrive Schleiermacher. Il maestro e il discepolo si devono poter ricercare e scegliere l'un l'altro in piena libertà, altrimenti l'uno è perduto per l'altro. Ora, tale libera scelta, appunto perché espressione della libertà religiosa dell'uomo, è sinonimo di ispirazione. In questo senso, illuminato dal principio di libertà, risulta perfettamente comprensibile quello che Schleiermacher scrive nelle Reden a proposito dei libri sacri. Di fronte ad essi, l'interprete che non sia in grado di attualizzarne l'originaria ispirazione si trova come di fronte a un mausoleo della religione, a un monumento che ricorda che un tempo c'era un grande spirito, ma ora non c'è più. Se invece si lascerà guidare da un'autentica mozione religiosa, cioè dall'ispirazione, il risultato della sua interpretazione vivente sarà una ricreazione del libro sacro stesso, l'interprete destinato a diventare coautore. È su questo orizzonte religioso che sono destinate a ritrovare tutta la loro profondità le definizioni schleiermacheriane dell'interpretare come nach costruiren, nacher leben, nach bilden, eccetera. Definizioni dalle quali viene bandito anche il più lieve accento metodologico oggettivistico. In esse, infatti, il rapporto soggetto-oggetto, interpres interpretandum, lungi dal lasciarsi spiegare dogmaticamente, categorialmente, vuole essere interpretato esistenzialmente, evenienzialmente, appunto come evento. È vero, Schleiermacher non usa il termine Ereignis, ma quello che attraverso questo termine viene detto dall'odierna filosofia ermeneutica, egli lo dice mediante il termine Augenblick. Anzi, i passi delle rede in cui tale termine ricorre devono venire letti con particolare attenzione, perché in essi prende forma l'autentica ontologia schleiermacheriana, un'ontologia che non diversamente da quella heideggeriana vive dell'Und che salda sein und Zeit e postula quasi in una sorta di ontologia fondamentale quella che Schleiermacher, nella considerazione finale della Vorlesung ermeneutica del semestre invernale 1826-27, chiama di spezielle Anthropologie. Vale quindi la pena soffermarsi su questo intreccio di problemi nel convincimento che solo nella loro particolare delucidazione e impostazione trova la propria fondazione ultima la stessa ermeneutica schleiermacheriana. L'Augenblick è la dimensione temporale filtrata di eterno in cui accade l'esperienza immediata dell'esistenza e dell'attività dell'universo. In tale esperienza, che è come il lampo eracliteo che squarcia la notte, in virtù della perfetta fusione di intuizione e sentimento, viene in luce la natura relazionale dell'essere articolato in maniera evenienziale o aletheologica nel rapporto di finito e infinito. La fusione infatti di intuizione e sentimento, avendo la prima a che fare più con l'attività gratuita autosvelante dell'infinito, e la seconda col modularsi linguistico in una sorta di logos en diathetos, di tale rivelazione accolta dentro le strutture del finito, non può non ricordare analoghe speculazioni della teologia trinitaria, che del resto nell'età di Goethe conosceranno un'immensa fortuna filosofica anche nella seconda, per dir così, filosofia di Fichte, ispirata per espressa dichiarazione dello stesso Fichte dai medesimi ispiratori della filosofia schleiermacheriana. Platone, in particolare con la sua dottrina, molto sottolineata da Schleiermacher, del prosti, della relazione, come ha sottolineato anche Scholz nel suo Beitrag al congresso di Berlino, trattando della dottrina delle idee in Schleiermacher, che mutuerebbe appunto da Platone. Quindi gli ispiratori di Fichte e di Schleiermacher sono Platone e il Vangelo Giovanneo, il quarto Vangelo, con la dottrina del Logos, con il tema dell'Anziehung, dell'attrazione, che è un tema pietistico anche, e della Herrlichkeit, della gloria. Scrive dunque Schleiermacher nella seconda rede: l'intuizione senza il sentimento è nulla e non può avere né giusta origine né legittima forza. Anche il sentimento è nulla senza l'intuizione. Ambedue sono qualcosa solo quando e perché sono originariamente una sola cosa indivisa. Quel primo misteriosissimo momento, jener erste geheimnisvolle Augenblick, che c'è in ogni percezione sensibile, prima ancora che l'intuizione e il sentimento si separino, e nel quale il senso e il suo oggetto sono, per dir così, fusi l'uno nell'altro e sono diventati una sola cosa, prima ancora che ambedue siano ritornati al loro posto originario, so quanto è indescrivibile e come passi presto. Ma io vorrei che voi lo poteste trattenere e riconoscere anche nella superiore e divina attività religiosa dello spirito. O potessi io esprimerlo o almeno accennarlo con un paragone, senza profanarlo. Esso è fuggevole e trasparente come il primo profumo che la rugiada solleva dai fiori appena sbocciati. È pudico e tenero come il bacio d'una vergine. È santo e fecondo come l'abbraccio nuziale. A dire il vero, esso non è soltanto come ciò, ma è insieme tutto ciò. Rapidamente e come per incantesimo, un fenomeno, un avvenimento, diventa immagine dell'universo. Fine della citazione. Notevole la dottrina del Bild qui enunciata da Schleiermacher, e alla cui luce dovrà essere rivisitata anche la centrale riflessione che nella sua etica egli dedica al simbolo e al symbolisierung process. La consistenza etico-religiosa e ontologica del Bild è tanto poco metaforica e allegorica che invece di rimandare semanticamente a qualcosa che la trascende e le è esterno, esaurisce in sé il moto di contemplazione adorante del mortale. Das Bild des Universums. Qui quindi il genitivo è tanto soggettivo quanto oggettivo. L'universo è la propria immagine. Infatti, prosegue Schleiermacher, appena si forma, l'amata e sempre cercata immagine vola incontro alla mia anima. Io l'abbraccio non come un'ombra, ma come l'essere santo stesso. Ich umfange sie nicht wie einen Schatten, sondern wie das heilige Wesen selbst. Io riposo nel seno del mondo infinito. Sono in questo momento la sua anima, perché sento tutte le sue forze e la sua vita infinita come mia propria vita. L'attività immaginifica in cui ultimamente si dispiega e autentica l'esperienza religiosa acquista pertanto una valenza ermeneutica. Per essa infatti il mortale, a somiglianza del discepolo prediletto di Cristo, diventa l'epistethios, colui che posa la propria testa sul petto dell'universo, sentendone pulsare la vita quasi fosse la propria vita, in una sorta di Lebensverschmelzung. Si dovrebbe sottolineare qui l'essenza ermeneutico-linguistica dello stesso universo schleiermacheriano, evocando in particolare le connotazioni periecontologiche, per usare un'espressione jaspersiana, mutuate dalla dossografia eraclitea, in cui esso si carica. Periecontologie, Jaspers parla in von der Wahrheit, è un'espressione che deriva dal greco perieco, l'ogni abbracciante. Ecco, per Schleiermacher l'universo che, inverando il doppio etimo di logos in quanto parola, senso e legame, unione, si profila come la parola ogni abbracciante che dona senso. Come dice Schleiermacher nel saggio su Eraclito, la lei freneres, si può quasi coniugare come nel simbolo nel credo tu solus santus. Ecco, per Schleiermacher come per Eraclito, l'universo è il solo logico, il solo intelligente, il solo intelligibile, la lei freneres, la lei freneres, della comunione con il quale soltanto vive la parola dei mortali. Quest'ultima, in fondo, come aveva ben inteso lo Schlegel della Luzinde del 1799, quindi Coev delle Reden, improvvisatosi involontario chiosatore delle Reden, quest'ultima, la parola mortale, è lo Zauberstab mit dem die unwiderstehliche Willkür der hohen Zauber in Fantasie, das erhabene Chaos der vollen Natur berührt. Und das unendliche Wort ans Licht ruft, welches ein Ebenbild und Spiegel des göttlichen Geistes ist und welches die Sterblichen Universum nennen. La dimensione temporale, quindi, in cui si dispiega l'unione di finito e infinito, è costituita dall'Augenblick. Il luogo in cui, invece, la rivelazione dell'universo si attua è detto das religiöse Bewusstsein, così nella Glaubenslehre, nella Dialektik, ma anche nella citata Schlussbetrachtung dell'Hermeneutik. Ma soprattutto questo luogo è detto die Seele, con espressione che richiama subito alla mente l'aristotelico e psiche pantapos esti, filtrato attraverso la monadologia leibniziana, ma non dimentico della tradizione agostiniana. Infatti, osserva Schleiermacher, i concetti di attrazione e repulsione, individualità e unità, per il cui solo mezzo la natura diventa per noi intuizione del mondo nel vero senso della parola, derivano dall'intimo dell'anima e sono poi da lì applicati alla natura. E prosegue. Anche per questa ragione, l'anima è propriamente ciò verso cui la religione rivolge il suo sguardo e da cui attinge le sue intuizioni del mondo. Nella vita interiore si rispecchia tutto l'universo, e solo attraverso l'interno l'esterno diventa intelligibile. Ma all'anima non rivolge la sua attenzione soltanto la religione. Anche l'etica schleiermacheriana del 1804-5, coeva quindi del primo corso di ermeneutica, pone al proprio centro la Seele des Einzelnen, concepita platonicamente come idee als Prinzip des Lebens, e tira la sintomatica conclusione. In dem aber die Idee nur als Seele eines besonderen Gesetz ist, so ist dieses nur Relation, das heißt Prosti. Relatives ist nur wo Absolutes ist, das Absolute in Beziehung auf das Relative ist das Allgemeine. Una conclusione questa che verrà ripresa da Schleiermacher per motivare l'interesse religioso speculativo dell'ermeneutica. Scrive Schleiermacher alla fine dell'ermeneutica curata da Lücke: è infatti del massimo interesse scientifico comprendere l'uomo come manifestazione fenomenica, Erscheinung, a partire dall'uomo in quanto idea. Incomincia così a prendere forma quella speziale antropologia che, connessa con la grammatica e la dialettica e la tecnica, dovrebbe permettere di scoprire nell'ermeneutica, come scrive Schleiermacher, un potente motivo di connessione dello speculativo con l'empirico e lo storico, secondo l'affermazione della già citata Schlussbetrachtung dell'ermeneutica del 26-27. Ovviamente l'antropologia di cui qui si tratta non può essere che quella che ravvisa nell'individuo etico-religioso il centro, l'or, da cui si diparte tutta una raggiera di possibilità costitutive che abilitano tanto al moto dell'interiorizzazione quanto a quello del trascendimento cosmico e metacosmico. Ora, l'atto di nascita di un tale individuo viene ravvisato espressamente da Schleiermacher, sia cronologicamente che logicamente, nell'Augenblick che vede il sorgere della coscienza religiosa come, citazione, un'individualità interamente particolare e nuova rispetto alla disposizione religiosa infinita dell'umanità, Questo momento è cioè un punto determinato della sua vita, un anello della serie, tutta sua propria, dei suoi atti spirituali, ed è insieme un fatto il quale, come ogni altro fatto, sta in un determinato rapporto con un prima, con un ora e con un poi. E poiché questo prima e questo ora è in ciascun individuo qualcosa di interamente a lui proprio, anche il poi sarà pure tale. E poiché a questo momento e alla circostanza in cui sorprese l'animo e al suo nesso con la precedente indigente coscienza si ricollega e per così dire se ne sviluppa geneticamente, tutta la sua seguente vita religiosa, quindi questa vita, ha pure in ciascun individuo una propria personalità assolutamente determinata. Fine della citazione. Ora, la vita etico-religiosa che sta all'origine della storia e quindi anche dell'ermeneutica è individuale, come scrive Schleiermacher, non per irrevocabile limitazione a un particolare numero o a una particolare scelta di intuizioni e di sentimenti, non per la natura della materia religiosa ivi presente e che quest'uomo ha in comune con tutti quelli che insieme con lui sono nati spiritualmente nel medesimo tempo e nella cerchia della medesima religione, ma è individuale per quello che egli non può avere in comune con nessuno, per il continuo influsso delle circostanze in cui il suo animo è stato per la prima volta salutato e abbracciato dall'universo, per la maniera originale in cui egli adopera la sua meditazione, la sua riflessione su questa circostanza, per il carattere e il tono con cui essa risuona in tutta la serie seguente delle sue vedute religiose, dei suoi sentimenti, carattere e tono che non scompaiono mai, per quanto egli poi progredisca nell'intuizione dell'universo, al di là di ciò che la prima infanzia della sua religione gli ha offerto. Fine della citazione. Anzi, tale carattere e tale tono improntano talmente di sé l'individualità etico-religiosa che non possono non presiedere anche al costituirsi dell'individuatissimo atteggiamento di comprensione e quindi di precomprensione nei confronti delle oggettivazioni etiche che via via sono destinate ad entrare nel suo campo di visione e di esperienza. La prima intuizione religiosa, infatti, è e rimane per l'individuo, come dice Schleiermacher, la sua intuizione fondamentale, in rapporto alla quale egli vedrà tutto e in rapporto alla quale è determinato in anticipo l'aspetto in cui gli deve apparire ogni elemento della religione e della vita etica appena egli lo percepisca. Ma perché nella storia possa realizzarsi la comprensione delle esperienze etico-religiose e in esse e per esse delle individualità umane, occorre che la struttura ermeneutico-linguistica che abbiamo visto presiedere all'intima costituzione dell'evento originario dell'esperienza religiosa si esteriorizzi e presieda anche all'ineludibile comunicazione di quell'evento. Scrive Schleiermacher: l'uomo religioso parla necessariamente, non può fare a meno di manifestare e di comunicare ciò che è in lui. È appunto questa sua natura a procurargli degli ascoltatori e quindi a conferire forma ecclesiale al suo essere con gli altri uomini. Ora però tale bisogno di comunicazione, lungi dal costituire la legittimazione del proselitismo, si autentica come genuina espressione della finitezza umana e quindi anche come fondamento della concezione pluriprospettivistica ecumenico-liberale della verità. In nessuna maniera di pensare e di sentire, si legge nella quarta rede, l'uomo ha in sé ha un sì vivo sentimento della sua totale incapacità a mai esaurire l'oggetto della sua ricerca, quanto nella religione. Il sentimento per essa è appena sorto ed egli già sente anche l'infinità di essa e i propri limiti. Egli è consapevole di poterne abbracciare soltanto una piccola parte e ciò che egli non ne può raggiungere immediatamente vuole almeno percepirlo per l'intermediario di altri. E perciò ogni manifestazione di essa lo interessa e cercando il complemento di ciò che ne possiede, egli sta attento ad ogni suono che riconosce come proprio di essa. Così organizza una reciproca comunicazione, così per ciascuno parlare e ascoltare sono ugualmente indispensabili. Fine della citazione. Se pertanto da una parte proprio per la sua indipendente individualità, il campo della singola intuizione etico-religiosa è così infinito, dall'altra nessuno può dire che il proprio orizzonte sia il più largo, abbracci tutto ciò e che al di là del medesimo non ci sia più nulla da vedere. Infatti, da un punto di vista opposto, non solo noi avremmo in nuove regioni nuove intuizioni, ma anche sull'antico spazio ben noto i primi elementi si unirebbero in forme diverse e tutto sarebbe altrimenti. Il pluriprospettivismo raggiunge qui quasi una formulazione gestaltica, in conformità del resto con la concezione personalitaria che pervade le Redem. Come l'individuo è visto non tanto come realtà essenzialisticamente e biologicamente precostituita e quindi assecondante leggi di intangibilità naturale, ma piuttosto come uno Seele sein wollen, secondo la bella definizione di Schleiermacher, come una realtà in divenire, individualizzantesi, personalizzantesi in virtù dell'originaria esperienza etico-religiosa che ne costituisce, quasi come il Wiedergeburt pietistico, la nascita e le fornisce le energie di pensiero e di fantasia adatte all'intuizione dell'individuale legislazione etico-storica, così la natura e la storia vengono viste come il campo dinamico che si struttura in maniera polimorfa e sempre nuova sotto l'azione organizzatrice e simbolizzatrice della Beseelende Vernunft individuale. Scrive dunque Schleiermacher: ognuno non può fare a meno di essere consapevole che la sua religione è solo una parte di tutta la religione e che sui medesimi oggetti che lo impressionano religiosamente ci sono vedute che sono appunto così pie come le sue e tuttavia ne sono completamente diverse e che da altri elementi della religione derivano intuizioni e sentimenti per i quali gli manca il senso, forse interamente. Ovviamente quello che qui Schleiermacher dice della religione e delle sue manifestazioni vale anche per tutte le altre forme della vita etica. Nell'enciclopedia schleiermacheriana, come si sa, la religione, come filosofia e come pratica religiosa, viene collocata molto coerentemente tra l'etica e la storia e distribuita nella sua trattazione tra le discipline critiche e quelle tecniche. Si dovrà poi ancora ricordare non soltanto che la Glaubenslehre mutua dall'etica gli assiomi per l'elaborazione del fondamentale concetto di Chiesa, ma che la stessa etica del 1805 e 6, pur riconoscendo che la sfera autentica del sentimento nell'essere morale è rappresentato dalla religione, non teme di affermare che in ogni singola operazione vitale è presente il sentimento, che le garantisce un carattere di individualità e di irrepetibilità, ma anche implicitamente quella connessione con il fondamento divino di ogni realtà che è attestato appunto dal sentimento e che costituisce l'oggetto della dialettica. Nelle Reden, oltre a sottolineare l'ineludibilità della comunicazione ecclesiale, Schleiermacher si sofferma in particolare sul carattere retorico che tale comunicazione deve assumere. Infatti, egli scrive, la comunicazione della religione si deve fare in uno stile serio e da questa esigenza non può non nascere un'altra specie di società destinata specificamente a tale comunicazione. Conviene applicare all'oggetto più alto che il linguaggio può esprimere anche tutta la ricchezza e tutto lo splendore dell'umano discorso. È impossibile esprimere e comunicare la religione altrimenti che in forma oratoria, con tutto lo sforzo e con tutta l'arte del linguaggio e accogliendo di buon grado a questo scopo il servizio di tutte le arti che possono assistere il discorso fuggevole e mobile. E poiché la comunicazione religiosa è fondamentalmente comunicazione di una esperienza individuale, lungi dall'affidarsi alle forme del discorso argomentativo e sistematico, scrive Schleiermacher, potete pensare forse qualcosa di più strano che un sistema di intuizioni? È possibile forse formare un sistema con intuizioni e anzi con intuizioni dell'infinito? Essa, questa comunicazione, tende a farsi narrazione, ad assecondare cioè i ritmi del discorso suadente, aperto alle ragioni dell'esperienza e quindi atto a imporsi con la forza normativa intrinseca all'esemplum, al modello, scrive Schleiermacher. come ogni essere intellettuale finito documenta la sua natura spirituale e la sua individualità col farvi risalire come a sua origine a quello sposalizio dell'infinito col finito, a quell'incomprensibile fatto oltre il quale voi non potete più seguire la serie del finito e dinanzi al quale la vostra fantasia viene meno se lo volete spiegare mediante qualcosa d'anteriore, sia libertà sia natura, così parimenti voi dovete concedere una sua propria vita spirituale a ogni uomo, il quale, come documento della sua individualità religiosa, vi mostri un fatto parimenti incomprensibile, il modo, cioè, come una volta, mentre egli si trovava in mezzo al finito e al particolare, sorse in lui la coscienza dell'infinito e del tutto. Chiunque sia capace di indicare così il giorno natalizio della sua vita spirituale e di raccontare una storia miracolosa circa l'origine della sua religione, che tutti intendono che è un tema pietistico questo del raccontare il giorno della conversione, fissarlo nel diario, raccontarlo ad altri, eccetera, che appare come un influsso immediato della divinità e come un impulso del suo spirito, costui voi dovete pure stimarlo come uno che deve essere qualcosa di individuale e del quale si deve dire qualcosa di particolare, perché un tale fatto non accade semplicemente per produrre un inutile doppione nel campo della religione. Come ogni essere nato in questo modo può essere spiegato solo mediante se stesso e non può mai essere interamente compreso se voi non risalite il più possibile alle prime manifestazioni della sua libertà nei suoi primissimi anni, così anche la personalità di ciascuno è un tutto chiuso che può essere capito solo cercando di indagarne le prime rivelazioni. L'arché quindi di questo narrare non si identifica più con la presocratica origine e causa prima cosmologica, ma piuttosto con la storicissima origine etico-religiosa dell'individualità, origine detta sintomaticamente coincidente con le prime manifestazioni della libertà. E libertà, come si è visto, è il nome religioso dell'evento dell'ispirazione di ogni freie Handlung, di eine religiöse Tat wird, di ogni Wiedergeben einer religiösen Anschauung, di ogni Ausdruck eines religiösen Gefühls. Tutto ciò che costituisce la comunicazione religiosa, che in tale modo si esercita sugli altri, è ein Handel des Universums durch den einen auf die anderen. Ora, tutto quello che alla luce del concetto di ispirazione di libertà si è potuto affermare della comunicazione religiosa nella sua modalità fondamentale del dire, del rivelare, vale anche in una sorta di Nachbilden, di Nachkonstruieren, per la modalità della medesima comunicazione incentrata nel momento altrettanto fondamentale dell'udire, un momento che solo impropriamente si potrebbe dire passivo rispetto a quello del rivelare e del dire. Infatti, mentre nel primo l'attività del dire è in sostanza funzionale all'udire originario, la parola, il logos, di cui qui si tratta, è più che umana, rimanda a una zage originaria, il cui nome è già in Schleiermacher, quindi prima che in Heidegger, di sanfte stille, per cui, se si vuole, già in esso l'attività del dire è destinata, è sostenuta dalla originaria passività dell'udire. Nel secondo, la passività dell'udire è sostenuta dalla libertà della scelta che presiede a tale udizione, così che pure di esso si può affermare che proprio in virtù della libertà che lo invera e qualifica, auf eingebung geschehen ist. La libertà dell'udizione, questo è l'altro polo che assieme al parlare ispirato e perciò libero costituisce la natura etico-ecclesiale o linguistico-ermeneutica della realtà che ultimamente conti per la filosofia schleiermacheriana. È infatti di allgemeine Freiheit der Wahl, der Anerkennung und des Urteils a caratterizzare l'udizione religiosa e a permettere quella polypen natur teorizzata da Schleiermacher a proposito della Chiesa, ma che analogicamente può venire estesa come definizione di tutte le oggettivazioni etiche destinate a formare, attraverso un ripensamento delle dottrine leibniziane della monade e dell'armonia prestabilita, quell'unione dei beni etici che Schleiermacher chiama sommo bene, ma anche regno di Dio, e cioè Chiesa. E questa è la libertà di scelta che, come abbiamo già visto, deve guidare il discepolo verso il maestro, altrimenti l'uno è perduto per l'altro. Il liberalismo non potrebbe essere più conseguente nello svolgimento dei propri presupposti etico-religiosi. Per denotarne l'invincibile vocazione ecumenica, Schleiermacher può ricorrere a un'espressione sintomatica, ein Korb von Freunden. La comunità fondata sulla libera scelta, sul riconoscimento, è un coro di amici, perché, egli scrive, ciascuno, oratore e uditore, sacerdote e laico, sa che anch'egli è una parte e un'opera dell'universo, che anche in lui si rivela la sua divinazione e la sua vita divina. La Freundschaft come espressione siglata dell'autenticità del rapporto, del prosti etico-religioso e quindi anche ontologico. È su questo punto che si conclude l'itinerario speculativo di Schleiermacher, teso a dare una fondazione all'ermeneutica. Da sempre preoccupato di rinvenire le forme della libera comunicazione, della freie Geselligkeit, più adatte a salvare quanto c'è di individuale e di peculiare in ciascuno di noi, Schleiermacher era predestinato, dal passaggio attraverso l'esperienza pietistica e romantica, a porre il tema dell'amicizia al centro della propria riflessione. È forse proprio in virtù di tale esperienza che il suo precoce interesse scientifico verrà attratto dai libri ottavo e nono sull'amicizia dell'aristotelica Etica Nicomachea. Ma ancor più significativo è il fatto che nella Critique der bisherigen Sittenlehre egli critichi Kant e Fichte per non aver saputo dare, nelle loro filosofie morali, un posto di rilievo al tema dell'amicizia e dell'amore, posto che esso invece trova proprio in virtù delle loro idee etiche fondamentali nei sistemi di Platone e di Aristotele. E sull'orizzonte di questa riflessione storico-critica sono destinate ad acquistare un profilo inconfondibile le pagine che nei monologhi schleiermacheriani si diffondono sul nesso amicizia, comunicazione, libertà, giungendo a questa sintomatica definizione dell'amicizia. Essa è sempre un atto di purissima libertà, unicamente orientato verso l'individualità originale di altri esseri umani. Infatti, appena io mi sono veramente impossessato da una sorgente qualunque, di qualcosa di nuovo che si riferisca alla cultura e all'indipendenza individuale, non corro forse a comunicarla con parole e con fatti al mio amico, affinché condivida la mia gioia e, percependo il progresso della mia vita interiore, anch'egli ne ricavi profitto? Se si tiene presente tutto questo delicato intreccio di riflessioni, si potrà allora comprendere perché Schleiermacher, nella memoria accademica del 1829 sul concetto di ermeneutica, faccia ricorso all'esempio dell'amicizia, alle sue leggi di gratuità e di libertà, per illustrare il movimento che porta l'interprete a concentrarsi su questo piuttosto che su quest'altro interpretandum. Infatti gli scrive: per ciò che dipende dalla corretta comprensione del moto interiore dello scrittore al momento di concepire e comporre la sua opera, per ciò che costituisce il prodotto della sua peculiarità personale nella lingua e nell'insieme della sua situazione, pure l'interprete più abile otterrà i migliori risultati soltanto con gli scrittori a lui più congeniali, quelli da lui prediletti, con i quali gli è riuscito di immedesimarsi di più, così come anche nella vita ci si affiatta meglio con i soli amici intimi. Fine della citazione. E se l'amicizia viene qui evocata per illustrare più specificamente quello che Schleiermacher definisce ermeneutica psicologica, sarà lo stesso esempio evocato a metterci in guardia dall'intendere, come troppo spesso si è inteso, questa dimensione dell'ermeneutica in un senso psicologistico o storicisticamente metodologico. È precisamente l'esempio dell'amicizia in quanto libertà orientata verso l'individualità originale di altri esseri umani a insegnare che nell'ermeneutica il rapporto che si instaura tra interprete e interpretandum, lungi dal mettere in ombra uno dei due termini del rapporto o dall'appiattirne metodologicamente uno sull'altro, lascia che entrambi entrino con pari dignità nel gioco, per così dire, amicale dell'evento ermeneutico. E ciò, come ben si intende, non significa privilegiare in maniera esclusivistica l'ermeneutica psicologica su quella grammaticale. A parte il fatto che per Schleiermacher tra le due esiste un nesso dialettico di circuminsessione e che entrambe sono state sempre fatte oggetto di pari attenzione nei suoi diversi corsi di ermeneutica, se volessimo spostare l'accento della nostra riflessione sull'ermeneutica grammaticale, non potremmo non pervenire a conclusioni analoghe a quelle fin qui raggiunte nel tentativo di contrastare la tesi barthiana dell'insensibilità di Schleiermacher per la dottrina dell'ispirazione. Dovremmo infatti prestare una più intelligente e partecipe attenzione alla dichiarata intenzione di Schleiermacher di fare dell'ermeneutica una scienza welche die ganze Sprache als Anschauung umfasst und die innerste Tiefen derselben von außen anzudringen strebt, e chiederci come doveva essere intesa la Ganzheit del linguaggio e la sua innerste Tiefe, in particolare che cosa significa comprendere il linguaggio come Anschauung. Nel tentativo di dare una risposta a simili domande verremo probabilmente rimessi nel movimento del discorso cui fin qui Schleiermacher ci ha sollecitato, e troveremmo che dovrà venire letto nello spirito della speziale antropologia finora enucleata alla luce dei temi dell'ispirazione e dell'Augenblick anche la definizione dell'uomo, di ogni uomo, che si incontra sulla soglia dell'ermeneutica schleiermacheriana. Ogni uomo è per un verso un luogo, Ort, il Dadi-Dasein, in cui una data lingua prende forma in un modo particolare e il suo parlare va inteso solo partendo dalla totalità della lingua, ma egli è anche, per altro verso, uno spirito in costante evoluzione e il suo parlare è soltanto come dato di fatto di quest'ultimo, in connessione con tutti gli altri. Esso poi non è compreso in quanto dato di fatto dello spirito, se non è compreso anche nel suo rapporto con la lingua. A nessuno sfugge l'ovvietà del senso racchiuso in queste parole, ma è proprio dall'ovvietà della lettera che esse ci vogliono parlare. Come intendere allora Schleiermacher quando nella conclusione dell'ermeneutica dichiara che è del massimo interesse scientifico e religioso conoscere wie der Mensch in der Bildung und in Gebrauch der Sprache zu Werke geht? Appunto, l'ermeneutica, per poter essere filosofica, deve scaturire da un impulso, da un eros, dall'orexis dell'uomo in quanto psiche, vele, individuelle idee, o come dice Schleiermacher, da un interesse. Ma wenn das allgemein religiöse Interesse fallen sollte, würde auch das ermeneutische verloren gehen. Danke. Allora, ringrazio il relatore per il suo denso ed interessante contributo. Io credo che ci trovano molti punti di partenza per fare domande, critiche, osservazioni. Allora abbiamo un cadre sufficiente per la discussione, io credo. Allora, chi vuole fare il primo intervento? Allora si prega di indicare il nome. Forni di Bologna. Io ho apprezzato moltissimo la relazione del professor Moretto su varie questioni, però vi sento molto profondamente da lui nella sostanza per quanto riguarda la sua interpretazione del rapporto tra Barthes e Schleiermacher e anche in un certo senso da quella sua citazione di San Paolo, nel senso che evidentemente Barthes e Schleiermacher intendono per ispirazione cose molto diverse. Tutto in un certo senso in Schleiermacher è ispirazione, mentre per Barthes la relazione tra Dio e il mondo non è qualcosa di spontaneo, di dato, di in qualche modo naturale, non è già implicita, è un avvenimento che si può dire miracoloso, cioè il mondo, l'uomo di per sé sono chiusi in una dimensione che è una dimensione mortale, che è una dimensione senza uscita, e l'ispirazione o l'intervento dello spirito è qualche cosa che accade al di fuori delle possibilità, come tutti sappiamo, no? Il pensiero di Barthes è presso poco questo. Quindi invece nel mondo di Schleiermacher l'ispirazione in questo senso, cioè il fatto che evidentemente il professor Moretto parlava anche del cosiddetto fatto incomprensibile, dell'incontro tra finito e infinito che fonda l'individualità, certo tutto viene riportato all'individualità e alla libertà, ma questa è ispirazione in un senso secolarizzato, laicizzato, che ha un senso completamente differente da quello che ha in Barthes. Ah, certo, sono d'accordo che i due erano due universi, ma appunto io sono partito dalla precomprensione che guida le storie dell'ermeneutica, no? E anche qui c'è una precomprensione che guida la lettura barthiana di Schleiermacher, no? Cioè dice assolutamente non aveva nessun senso per il tema dell'ermeneutica, per il tema dell'ispirazione. È ovvio, l'epocalità di Schleiermacher sta proprio in questo universalizzare dal punto di vista del principio di libertà contrapposto al principio di confessionale, ecco, di rivisitare tutti questi concetti delle chiese, il concetto di grazia, il concetto di miracolo, è possibile che queste cose, ecco, barthianamente, improvvisamente, senza un punto di aggancio nell'uomo, nascano così dentro le chiese, nell'Oreb, nell'Islam, cose di questo genere, e gli altri uomini. Quindi mi pare che cioè questa, diciamo, precomprensione di Barthes, che è degna di rispetto, perché noi dobbiamo moltissimo a Barthes proprio per intendere Schleiermacher, proprio per questa contrapposizione, ecco, ci aiuti anche tra l'altro proprio a rivisitare il concetto di ermeneutica stessa, no? Perché diventa un concetto universale, come diventa universale il concetto di ispirazione. Ma io volevo dire che il concetto paulino e anche barthiano di ispirazione non hanno nulla a che fare in fondo con il concetto schleiermacheriano. Ma io chiedo, perché bisogna mettere Paolo dalla parte di Barthes e Paolo non può essere messo dalla parte di Schleiermacher? Chi l'ha detto questo? C'è un papa anche nella filosofia o nella scienza? Questo che non accetto, non posso accettare queste cose. Allora diciamo che quello di Barthes, ecco, il concetto di ispirazione di Barthes non è quello di Schleiermacher, quindi Barthes dal suo punto di vista ha ragione di dire. Ma ogni word, ogni parola, ogni slogan, o la cos legata, si dice in molti modi. E perché quello di Barthes deve essere quello della teologia, überhaupt? È romantico, le romanticherie di Schleiermacher, ma andiamo ad agio con le romanticherie, tutte queste immagini d'abbraccio sponsale, eccetera. Ma non è romanticheria quella cosa, deve essere ripensata. Perché come Ebeling parla di Lutero come evento linguistico, anche di Schleiermacher parla di evento linguistico. Nelle Reden c'è veramente il realizzarsi di un evento linguistico ed è epocale. E come mai Panenberg, io non conosco la storia della teologia, come mai Panenberg oggi criticano i Barthes e tornano su linee di Schleiermacher? Come mai? E come mai la chiesuola barthiana? E finisce sì, perché politicamente hanno potuto dire il nein, hanno potuto dire certi nein. Ma cosa giustifica sul piano scientifico? Saranno stati alla moda? Saranno stati più antivegenti dei cristiano tedeschi? Ma questo è un altro discorso. Ma non si possono fare queste confusioni barthiane. In ogni caso, per i filosofi, mi pongo su un versante filosofico, Barthes non ha niente da insegnare alla filosofia. Diceva che la filosofia della religione è ibris, e quindi i filosofi della religione, il vero peccato dell'uomo è la filosofia della religione, quindi quelle filosofie della religione che si ispirano a Barthes non sono filosofiche e sono sconfessate dallo stesso Barthes. E per venire al concetto ancora di ispirazione, certo, sono d'accordo con quello che tu dici, però quello è il principio confessionale, però funzionale a quel concetto di ispirazione è anche un certo concetto di Dio, ed è un concetto dell'intolleranza, è un concetto soltanto del mondo, di un Dio per il mondo occidentale, capitalistico, eurocentrico, quello che vuoi, capisci? La filosofia deve, la teologia, Barthes ha insegnato che la teologia deve essere ecclesiale poi anche, no? Quindi quello che è il momento, ecco, riflessivo, quindi qui Barthes ha preso moltissimo da questo punto. Qui sarebbe una specie di contraddizione nella universalità di Schleiermacher, no? Di rendere questi concetti leggeri secondo il principio di libertà, che poi postula la teologia pratica, la teologia di una chiesa particolare in quel momento, sforzandosi di renderla universale. Ovvio che anch'io qui ho proceduto settorialmente, con precomprensioni, ecco, privilegiando un certo Schleiermacher. Allora, segue l'intervento del professore Sorrentino. Io voglio dire prima di tutto che l'intervento di Moretto, come dire, fa pensare, dà a pensare. Non fa troppi complimenti, che sono i concorsi in vista. No, no, non ti preoccupare. Non c'è pericolo per questo. Ah, bravo. No, ma io lo dico in senso ricoeriano, no? Cioè, effettivamente si affollano una serie di, diciamo, di questioni che mettono, ecco, a confronto con un evento linguistico. Io sono d'accordo su questa definizione che viene data, diciamo, dell'interlocutore Schleiermacher, nel senso che è probabilmente è anche questa una delle ragioni per cui poi nella storia Schleiermacher ha goduto sempre di una inattualità, che a mio avviso è un fatto interessante. Ma io volevo ripigliare un po' il problema posto da Forni, non tanto appunto in relazione a Barthes, perché mi sembra che salti agli occhi che i due, no, Schleiermacher e Barthes, hanno due concetti differenti di ispirazione. Ecco, se mi si permette una sintetica, diciamo, come io vedo la distanza, è che mentre Barthes non lega al fatto, no, la rivelazione, e quindi anche l'ispirazione, cioè è iperfattisch, no? Se mi si può passare la cosa, tra l'altro alle spalle c'è tutta una tendenza della teologia che sarebbe interessante chiarire, quella grosso modo che fa capo a Hermann, vabbè, il quale aveva elaborato queste questioni, aveva bestoricizzato, no, il factum Gesù di Nazareth, e quindi viene dopo, e Schleiermacher è su un'altra cosa. Schleiermacher lega l'ispirazione, la rivelazione al factum, Grundfactum, cioè è un'espressione che si trova nelle Reden e si trova non a caso anche nella Glaubenslehre, nell'introduzione. Ma l'interrogativo, a mio avviso, si ripropone in che senso? In che rapporto? Questo è l'interrogativo che volevo avanzare. Sta questo concetto di ispirazione che mi sembra e mi fa molto pensare, no? Lo trovo molto vicino, molto adeguato, ecco, diciamo, alla proposta schleiermacheriana dell'ermeneutica, perché questo è il riferimento e mi sembra giusto, dirò subito, avanzando un altro interrogativo, in che senso. In che rapporto sta questo concetto, diciamo così, filosofico di rivelazione con il concetto ecclesiale di ispirazione, che viene elaborato nella Glaubenslehre, laddove appunto viene legata al problema della parola come, diciamo, struttura della mondanità della Chiesa. No? Ecco, lì viene ripreso questo. In fondo, a mio avviso, c'è un rapporto. Vorrei capire che tipo di rapporto, anche perché non mi sono posto il problema esplicitamente, ecco, però mi sembra di intravedere che un rapporto ci deve essere. Che poi, se vogliamo, è il problema dell'interrogativo, che rapporto sussiste tra l'ispirazione come fatto cosmico, storico, generale, e l'ispirazione specifica che costituisce un'area all'interno di un'area ecclesiale. Questo primo problema. Secondo interrogativo, all'inizio della ermeneutica di Luc citata, Schleiermacher, in una di quelle dense formulazioni, fa questa osservazione che a mio avviso è molto interessante e che, se vogliamo, non so se questo è giusto, il tuo intervento può essere letto un po' come uno sviluppo di questa affermazione. Cioè, dice, l'atteggiamento, diciamo, l'evento dell'interpretare ha un suo simmetrico che è l'evento del dire. Cioè, c'è una simmetria tra l'interpretare e il dire. Com'è? Detto in altri termini, la stessa operazione antropologica che è l'interpretare ha il suo corrispettivo simmetrico nel dire. E quindi Schleiermacher dice, io questo qui lo lascio da parte, il dire, e sviluppa l'interpretare. Ecco, Io l'interrogativo che pongo è questo. Ecco. Mi sembra che si possa domandarsi se questa simmetria, ecco, è una simmetria di incongruenti. Voi sapete che su questo tema, per esempio, Kant e l'estetica trascendentale di Kant ha avuto il suo punto di partenza, diciamo, nella elaborazione filosofica appunto dell'estetica trascendentale, cioè la questione degli incongruenti, dei simmetrici incongruenti, eccetera. Ecco, si tratta di due incongruenti oppure si tratta di simmetrici congruenti? Ecco, secondo lo sviluppo datoci da Moret, mi sembra che sia la seconda risposta da dare, cioè, come dire, la stessa struttura ontologica presiede all'uno e all'altro atto, all'uno e all'altro fatto, quello del dire e quello dell'interpretare. E in questo senso mi sembra, perché se fosse diversamente, e io noterei che quelle poche volte che si è posto l'accento su questo inizio qua della dialettica dell'ermeneutica di Schleiermacher, mi sembra che generalmente si è orientati a dire, io stesso l'ho pensato in un primo momento, ma devo dire che mi sono ricreduto, che si tende a pensare come la questione dell'interpretare è gestita da Schleiermacher appunto nella linea dell'ermeneutica, invece quella del dire viene gestita e avrebbe bisogno di un altro approccio, ecco, io ritengo no. Vorrei capire se è questa un po' la linea, come mi sembra di capire, oppure è un'altra. Dunque, quanto alla prima domanda, cioè praticamente il concetto filosofico, ecco, di ispirazione è quello confessionale, ecclesiale, che lui elabora. Non ho tenuto presente, lo vedrò nelle note poi, la Glaubenslehre più particolarmente per questo. Io penso che ci sia il rapporto tra universale e particolare, cioè l'ispirazione nel senso filosofico è universale di tutti gli uomini, però non è universale nel senso formale, vuoto, perché è l'ispirazione che giudica anche l'altra ispirazione, cioè l'ispirazione particolare, l'ispirazione delle singole chiese. E in Schleiermacher c'è questa tendenza proprio di rimanere fedele al principio di libertà, di interpretare anche il dato rivelato, questa è la costante tendenza di Schleiermacher, di interpretare, ecco, il fatto, diciamo, storico, di vederlo nella luce dell'universalità, cioè della filosofia. E quanto al fatto storico particolare, tu hai evocato, perché entra poi in qualche maniera la cristologia, do qui una specie di suggerimento, ecco. Noi studiamo sempre l'ermeneutica, ma la critica viene lasciata perdere. Ora, nella critique, Schleiermacher sviluppa concetti splendidi, la coppia, una coppia di concetti che regolano l'ermeneutica, è Tatsache e Erzählung, il narrare. E in mezzo, tra il Tatsache e l'Erzählung, si svolge tutta quanta la gamma dell'errore e della verità. E la struttura, poi, anche qui, cerca di universalizzare anche queste strutture. Quindi, quando si parla di Schleiermacher, che universalizzerebbe la cristologia, la fa diventare qualcosa di universale, qualcosa di vuoto, non è vero, perché il problema di Schleiermacher è quello della Tatsach. Ma che cos'è la Tatsach? E poi c'è la mediazione dell'Erzählung, della narrazione. Ecco, e quindi quello è il contesto nel quale poi si svolgono i discorsi ermeneutici, si svolgono i discorsi filosofici e teologici. Quanto alla seconda domanda, cioè il rapporto tra interpretazione e dire, è vero, Schleiermacher, appunto, bisogna, a mio modo di vedere, in Schleiermacher c'è nella storia della critica la stessa difficoltà che si trova per Fichte. Come mai la Wissenschaftslehre del 1794 è un libro noioso, un libro illeggibile? Lo dicono gli stessi Parison, lo dice, gli specialisti di Fichte dicono che è un libro illeggibile. Come mai questo libro però ha avuto quell'influenza enorme, tanto vero che lo Schlegel dice che è uno dei tre grandi avvenimenti dell'epoca, insieme alla rivoluzione francese e il Wilhelm Meister? Come mai? Ma perché raccoglieva, ecco, quello che era nell'aria, raccoglieva lo spirito del tempo. E lo spirito del tempo, che non è puramente un'espressione del tempo, ma è qualcosa di eterno, di rivelativo. Ecco, e poi Fichte queste cose le dice nei discorsi più popolari, le dice in maniera più leggibile, in maniera più comprensibile. Ecco, per Schleiermacher avviene qualche cosa di analogo, cioè il detto, la parola di Schleiermacher, ecco, le cosiddette lezioni, ecco, di Schleiermacher. La Wissenschaftslehre era la lezione accademica di Fichte, che accostava sempre col De Officiis Eruditorum, no? Queste lezioni popolari, che servono poi per spiegare soprattutto quelle del gli scritti popolari del 1804 e 6, servono per capire queste continue pubblicazioni che ci fanno della Vicenza Sartalere, prima, seconda, del 4, eccetera, no? Ecco, bene, c'è qualche cosa di analogo. Questa gente, mi pare, che era costretta proprio dall'accademia, dal discorso accademico, di star lì, elaborare la vecchia logica, e c'è tutto un golfismo qui dentro, no? E tirare fuori tutti quanti i principi, di identità, di contraddizione, eccetera, che sono bardature inutili, tanto vero che quello le lascia cadere. Ecco, così Schleiermacher è una situazione, mi pare, analoga. Quando lui svolge l'ermeneutica, l'ermeneutica comincia a fare un'infinità di distinzioni, no? Che nuociono proprio per capire l'idea fondamentale dell'ermeneutica di Schleiermacher. Quindi quello che tu dici, la distinzione tra interpretare e dire, cioè interpretare l'ermeneutica e la retorica, lui la chiama retorica, quello del, e la contrappone la retorica alla grammatica. La grammatica è la parola, ma la parola è quasi il logos endiathetos, il logos universale. Invece la retorica ha a che fare con il logos prophorikos, il logos della comunicazione. Ma lui lo dice che tra queste c'è una relazione dialettica. E poi bisogna, appunto, come ha fatto Scholz, bisogna collegarla dentro il sistema filosofico di Schleiermacher. Perché Schleiermacher dice che l'ermeneutica ha a che fare con la dialettica, ha a che fare con il tutto, soprattutto ha a che fare con l'etica. Ecco, quindi Schleiermacher si fa un pessimo servizio se si va lì a fare questi discorsi analitici. Bisogna cercare di capire. Ecco, per quello io ho voluto limitare il discorso soprattutto alle rede, perché sono convinto che l'ermeneutica di Schleiermacher nasce nelle rede, proprio in contemporaneità con la filosofia della filologia di Schlegel. E qui bisognerebbe evocare il bellissimo saggio di Patch sulla Zeitschrift für Theologie und Kirche, no? Chi è stato il primo a elaborare qui l'idea di ermeneutica? È indubbio che Schlegel, parlando della filologia come fatto universale, è das ewige Schlechtin, no? La chiama, la filologia è l'amore per la parola, non è più il discorso dell'antichità, ma qualcosa di formale, di universale. Schleiermacher lo fa diventare l'ermeneutica, così farà per la retorica. C'è una notazione epistolare di Schleiermacher interessantissima, proprio che dà la misura della classicità di quest'uomo. Cioè gli dice: io vorrei elaborare, dice, ho letto, mi pare, Dionigi dall'Itarnasso, una roba del genere, rettore, vorrei elaborare in maniera nuova la retorica. Ecco, quello stesso che lui aveva fatto nel 5, no? Nel 5, come documenta molto bene Firmont, no? Portando i documenti della nascita, ecco, dell'ermeneutica di Schleiermacher, fa vedere che Schleiermacher era proprio dominato, aveva questa ansia di pensare in maniera nuova queste cose che vengono adoperate così, in maniera così comune, ecco, l'ermeneutica adoperata dai teologi lì, quel settore. Invece lui, ecco, voleva, ecco, con un colpo d'ala cogliere veramente quello che vuole essere detto attraverso queste parole. È lo spirito della libertà, insomma. Adesso ha la parola il collega Speer. Io non vorrei riproporre qui le osservazioni che Kierkegaard fa a proposito di Schleiermacher, osservazioni che meritano la pena di essere considerate, ma non vorrei che Kierkegaard faccia la fine di Barthes, di conseguenza che io faccia la fine di Forni. Allora vorrei però... E fine era ancora vivo. No, allora io vorrei veramente porre in forma molto modesta, e mi scuso della genericità, il problema se questo und Schleiermacheriano, questo und, questo e questo mettere insieme, questa continuità, di conseguenza il tipo di individuo che viene fuori, dove tempo ed eternità si incontrano, dove individuo e società si incontrano, ecco, chiesa e mondo, faccia perdere la dimensione del mistero, che, e mi scuso ancora una volta, mi riferisco alle riflessioni kierkegaardiane, del mistero, del limite, della differenza, del peccato, del male, e di conseguenza anche che visione di Cristo e di imitazione di Cristo e di teologia della croce. Ecco, se la lettura schleiermacheriana, per quel pochissimo che io conosco e per quello che sto capendo in questi giorni, e ringrazio tutti i relatori, Non perda comunque questa dimensione che, tra altri, Kierkegaard ha sottolineato fortemente, e che credo conservi tutta la sua veramente istanza esistenziale. Grazie. Una domanda molto, molto pertinente, molto, molto acuta, perché è vero, certe cose Schleiermacher non si possono mettere dentro se non ci sono. inutile convegno di Montpellier Schleiermacher del 79, ma chissà perché cattolici e protestanti parlavano di ecumenismo e Schleiermacher messo alla base di una futura teologia ecumenica. Ma cristologia, la cristologia di Schleiermacher non parla di incarnazione, la cristologia di Schleiermacher non parla di resurrezione. Quindi è inutile che stiamo lì a voler costruire cristologie del futuro su Schleiermacher. Ci sono tanti temi di Schleiermacher che possono essere molto utili. E quindi in Schleiermacher ci sono dei limiti fondamentali. Questo è quindi il limite che sottolinea Kierkegaard, come lo sottolineava per Hegel. Ha ragione di sottolineare questo, cioè la mancanza del senso proprio del negativo. A parte che qui farei una premessa, cioè chiederei se questa età di Goethe, che viene detta così ottimistica, no? Ma ci sono delle pagine di Goethe che dice, mi pare nel Wilhelmmeister, che dice: ma che dentro questa coscienza, che è quella dell'anima pia, no? Dell'anima bella, no? Non ci siano queste vipere, non ci siano questi mostri. Che cosa significa? Questa è un'epoca che ha costruito questa visione irenica, questa visione positiva. Ma perché? Perché ha avuto bisogno di evocare tutte queste porte di fantasia, di speculazione, eccetera, per costruire una visione così ottimistica, così grande? Ma perché sentivano gli abissi, dovevano dare una risposta a questi abissi, anche se non stanno lì continuamente. A dire perché, per adoperare una parola kierkegaardiana, non volevano risparmiare ai lettori e al prossimo le espettorazioni, non volevano star lì a parlare di angosce continuamente. E questo è un po' un limite di mancanza di buon gusto della filosofia esistenziale, invece, no? Perché sembra quasi che sia filosofia solo perché si sta lì a fare espettorazioni del negativo. Però è indubbio che questo senso del negativo non viene messo molto in luce. Ora, per me la domanda è questa, cioè Schleiermacher è il capostipite assieme a Kant, Lessing e tanti altri, lo stesso Hegel, l'Hegel ripensato, eccetera, del pensiero religioso liberale. È appunto Hegel che qui viene in aiuto. Cioè il pensiero religioso liberale è quello che finisce negli Arnag, negli Ulicker, questa gente che firma i proclami del Kaiser e che provoca poi la reazione di Barthe e Römer Brief, oppure la teologia liberale, io preferisco parlare di pensiero religioso liberale perché qui allora c'è veramente identificazione di filosofia e di teologia. Pensiero religioso liberale non è talmente aperto strutturalmente da comprendere anche il negativo, e quindi ecco, autori come Hegel che parlano del negativo devono rientrare in pieno diritto. E non sono i treci che poi finiscono, tutto vacilla, tutto è finito. Se il pensiero religioso liberale è questo, come mi pare, come sono tutte queste grandi categorie, la romantica, l'auclerum, eccetera, sono categorie dello spirito, mi ha insegnato la fenomenologia dello spirito hegeliana, quindi se il pensiero religioso liberale è qualcosa di così universale, non può finire con gli scrupoli di Treutsch che lascia la facoltà di teologia e va a finire in quella di filosofia. Schleiermacher è veramente anche in questo, nonostante i suoi limiti, un grande esempio che deve essere riattualizzato, ma proprio dandone la linea del suo spirito. Quindi anche se lui il negativo non lo mette in primo piano, e probabilmente per un certo gusto, per una certa signorilità di questi pensatori, ma però le loro categorie sono talmente ampie, questo del pensiero religioso liberale, che non è finito, è anche il dopo Barth che può ancora continuare. Se non altro la filosofia, la teologia, faccia quello che crede, non so. Basta. Vuole ancora intervenire? No, scusa, questa continuità che tu hai, insomma... Ma per la filosofia, non... Cioè, non interessa la teologia. Ma scusa, lascia che dica la mia marito per i teologi. Una volta cominciano a tirare fuori il padre, un'altra volta il figlio, le modernità, il pendolo che oscilla, a un certo momento lo spirito, a un certo momento la chiesa, a un certo momento fanno la svolta antropologica, scopriranno Maria, Bartolo, no, Giuseppe. Ma scusa, questi sono come... Hanno sempre l'asso nella manica per darsi poi delle risposte. Ma siamo un po'... Che tu fossi, che è quello di cui hai parlato. È di Asper, liberalità di Aspersiana, poi. Secondo me c'è una certa differenza, no? Tra quella di... di Schleiermacher, di cui tu hai parlato, che mi troverebbe e invece quella di Arnag, per semplificare quella che poi va sotto il nome di teologia liberale, secondo me in mezzo c'è stato qualcosa, no? Cioè, fondamentalmente c'è stato quello che Schleiermacher aveva percepito come il rischio per la teologia, cioè la contrapposizione tra scienza e teologia. E non questo, secondo me, non è da dimenticare. Per cui, a mio avviso, è ha una diversità strutturale, quel liberalismo da quella. Sì, è la storia del liberalismo che dovete avere presente, però come categoria così filosofica, perché poi la storia non si può procedere, si procede solo con pseudoconcetti, delimitando chi, eccetera, chi mettere dentro in questa categoria di pensiero religioso liberale. Ci sta dentro benissimo gli Asper, ci sta benissimo dentro la filosofia, come si chiama, la rivelazione, no? La fede filosofica e la rivelazione. Unterwerfung Sprache, Zeit und Zeit, appartengono a questa linea. Al metodo di Schleiermacher, che coglie sempre l'esatto, come dire, l'empirico e lo speculativo, viene sempre calibrato. Ma bisogna, sì, d'accordo, ma bisogna vedere, cioè, perché sempre la filosofia, anche quella più idealistica, parte sempre dalla realtà. Platone parte dalla realtà, va su, ripostola l'iperuranio, ma per spiegare la realtà, quindi questo rapporto tra Zacher, Zellung e filosofie, idee, eccetera, è un rapporto. Quali che siano le formule, le figure poi che assume via via nella storia, ecco. Sì. Allora ho prenotato l'intervento del professore Segre. Oggi abbiamo la nostra giornata italiana, adesso mi permetto di fare la mia osservazione in tedesco, anche per calmare un po' la discussione. Forse posso anche tradurre poi in italiano, però è un'osservazione o una domanda assai semplice. Ich möchte sagen, dass man bei solchen Vergleichen mit etwa mit der Kritik Barths, man sollte nicht vergessen, dass Barth eigentlich bildungsmäßig nicht auf derselben Ebene steht wie Schleiermacher. Barth ist viel ungebildeter. Barth ist ein genialer Mann mit Einsichten, con intuizioni profonde e valide, certamente, ma culturalmente, come formazione intellettuale, è infinitamente inferiore a Schleiermacher. Und ich denke, um Barth gut verstehen zu können und anwenden zu können, nicht unbegrenzt, nicht dogmatisch, nicht politisch, nicht sozusagen voluntaristisch, sondern also intelligent, hilfreich, braucht es eine Hermeneutik Barths, die man eher bei Schleiermacher lernen kann. Ja? Zum Beispiel der kirchliche, orthodoxe, mittelalterliche, reformatorische und barthianische, neuorthodoxe Inspirationsbegriff, muss doch jedenfalls hypothetisch unterstellt werden, da er sich sprachlich in menschlicher Sprache ausdrückt, den allgemeinen Regeln der Interpretation menschlicher Sprache. Also Schleiermachers Gedanken haben etwas beizutragen, auch zur Interpretation der kirchlichen und der dogmatischen und der neuorthodoxen Sprache. Und wenn die neuorthodoxe und kirchliche Sprache sich dem entzieht, so steht sie in der Gefahr, sektiererisch zu werden, damit aber sozusagen die Dimension des Universalen, die das Göttliche meint, zu entgleiten. Und damit wird die Kirche zur Sekte und hat der Welt nichts mehr zu sagen und ist nicht mehr Kirche. Ja, also die Gefahr des Verlustes des eigenen Gegenstandes in der Theologenschaft und in der Kirche selbst. Ja, mehr wollte ich eigentlich hier nicht sagen. Ich hoffe, dass das Italienisch und Deutsch einigermaßen klar ist. Vielleicht, wir müssen ja auch gleich essen, habe ich eine Frage, die sich verbindet mit auch anderen Vorträgen. Das ist nur eine Anfrage an die Grenzen des der sprachlich-hermeneutischen Programms Schleiermachers und aller hermeneutischen Weltinterpretationen und Theologien bis hin zu Ebeling. Ich war das habe ich als Historiker schon, als Historiker, der es nicht nur mit sprachlichen Dingen, sondern mit mehr materiellen Dingen, die gar keine Ausdrucksmöglichkeit haben, die natürlich auch sprachlich erfasst werden müssen, aber die in sich zunächst einmal nicht sprachlich, sondern faktisch materiell sind, anders sind, vorausgesetzt, physisch, zufällig, politisch, äußerlich. Also kann man mit dem Programm einer Hermeneutik, in der der Begriff der Anschauung, des Empfangens von Eindrücken von außen im Mittelpunkt steht, kann man da sozusagen die Realität, von der der Mensch als intelligentes Wesen abhängt, vollständig oder angemessen, ganz angemessen erfassen. Sicher kann man sie nicht ohne das erfassen. Sicher ist der Mensch angewiesen sozusagen auf den sprachlichen Zugang zu der Wirklichkeit, von der er abhängt. Und dennoch ist es doch also entscheidend wichtig, dass dieser Begriff des Anderen, den Penzo eingebracht hat gestern in seinem Vortrag, in seiner Unverstehbarkeit, als Nagel in der Wand, nicht wahr, von der er wirklich etwas abhängen kann, damit man nicht von nichts abhängt, ja, erhalten bleibt. Das wäre also eine Grenze des schleiermacherischen Begriffes, sofern die Hermeneutik sozusagen das Übergewicht gewänne über der Theologie und über der Ethik und über der Geschichte. Aber das ist eben eine Frage auch der Schleiermacher-Interpretation, ob das richtig ist, nicht wahr? Ob er die Welt, die Wirklichkeit in Sprache aufgehen lässt oder nicht. Der Scholz hat ja das Gegenteil behauptet. Und ich glaube, das ist jeweils, wenn es nicht Schleiermacher angemessen ist, so ist es doch der Sache angemessen. No, non vorrei lasciare un'impressione di antibartismo. L'osservazione del professor Zelge, sono d'accordo, io considero Barth ovviamente come il croce, imam, le grandi figure del Novecento, che purtroppo oggi non ci sono più alla fine di questo secolo. In ogni caso, anch'io il mio grano di incenso l'ho bruciato a Barth, ho tradotto la biografia di Bush, no, di Baltasar, la teologia di Karl Barth, quindi anche il Marquardt, quello lo considero un delitto, di aver tradotto quello di Marquardt, che della vostra è un teologio, un però sì, ma appunto, comunque no, però il problema, ecco, essenzializzato rimane quello, ecco, rimane... Allora c'è l'ora di pranzo, allora è tempo di finire provvisoriamente i nostri lavori, che si continueranno alle 15:30. E il programma definitivo e completo sarà fissato dal Consiglio Supremo, personificato nella concretezza dell'amico Giorgio. Grazie. Italiano. Dai, parlo un poco. Allora, so capire se ho un tetto scritto e so anche capire una relazione scientifica e il vocabolario. Allora, ha insegnato la scuola, ma adesso ho cambiato l'università e la filosofia. E adesso insegna la filosofia a Mainz. Also seit April bin ich jetzt in Mainz.